Italia in controluce. 12-12-12, una data quella di oggi che evoca strane combinazioni astrali in attesa della fine del mondo prevista, come sapete, per il 21 dicembre, secondo i Maya almeno. Ma noi italiani, combinazioni astrali e fine del mondo fanno davvero sorridere? Noi cittadini italiani ogni giorno affrontiamo la nostra piccola fine del mondo fra disservizi e scioperi. Se avete da segnalarne qualcuno vi ricordo 349-238-6666, intanto un esempio della giornata di oggi che ce la racconta Cristina Carpinelli. Questa è la storia di un gruppo folto e ormai agguerrito di persone in balia di eventi esterni. Non stiamo parlando della neve o del freddo, per quello ci si attrezza. Parliamo invece di treni. Sono loro l'evento imprevedibile con cui convivono migliaia di persone che ogni giorno saltano in carrozza col cuore in gola, senza sapere se arriveranno, come e quale afrore emaneranno alla fine della corsa. Eh sì, perché le Ferrovie Nord, e i giornalisti lo hanno raccontato in ogni modo, sono la spina nel fianco della Grande Milano. Si viaggia male in condizioni ordinarie. Immaginatevi cosa accade se va in tilt il software che gestisce le corse dei locomotori e i turni del personale. Ritardi di ore, treni pieni all'inverosimile, gente ormai rassegnata. Lunedì il vero disastro. Già oggi però, come ci raccontano i passeggeri, va un po' meglio. Ritardi contenuti nell'ordinaria mezz'ora. Solito ritardo, circa 25 minuti di ritardo, treni sovraffollati, ormai ci stiamo abituando purtroppo. Siete stati avvertiti della ragione per cui c'erano questi ritardi? Sì, un problema di un software installato 3 giorni fa e il problema persiste, probabilmente non è possibile risolverlo e quindi noi dobbiamo abituarci ai ritardi. Oggi un pochino meglio, dai, rispetto agli altri giorni sembra che si sia un po' risistemata la situazione. Speriamo, né per i prossimi giorni. Non eravate stipati come lunedì? No, meglio, oggi un pochino meglio. Volevo chiederle com'è stata, insomma, questa settimana, so che è iniziata male per voi pendolari. Speriamo che continui meglio, questa mattina le cose sembrano migliorare, nei giorni scorsi un disastro, ritardi in continuazione. No, abbiamo scoperto arrivando in stazione. Avete viaggiato come? Sempre stipati o un po' più tranquilli? Come al solito, quindi abbastanza stretti. Com'è andata oggi col treno? Ma direi non benissimo come al solito, però il ritardo era contenuto. Da dove viene lei? Da Seveso. Quindi lei ogni giorno deve prenderlo questo treno? Sì, lo devo prendere ogni giorno e ogni giorno è un terno all'otto. Ma al lavoro come fa a spiegare questi ritardi? Si spiegano, poi non li capiscono, perché chiaramente fino a un certo punto ti capiscono, poi il problema diventa tuo. Anche adesso che c'è stato un problema tecnico alla fine? Non cambia nulla, il problema rimane sempre dell'utente del treno. E come fa ad organizzarsi per il ritorno adesso? Ci saranno comunque dei ritardi anche al ritorno? Sì, e beh, a casa aspetteranno. Quando poi arrivo. Si sa che ora si esce da casa e non si sa che ora si rientra, perché l'utente è sempre quello che ci rimette alla fine. Tutta la gente per strada guarda di qua e di là, vola nell'aria di festa un aquilone sulla città. Rassegnati è il termine che più viene utilizzato dalle persone che abbandonano con un lungo sospiro il treno arrivati alla stazione di Cadorna. Sembrano lontani i tempi in cui bastava un cappello per segnare il proprio posto. Signore desidera? Io? Niente. E allora cosa andrete a fare qui dentro? Perché in questa cabina ho il mio posto? Sì. L'ho occupato lei? Sì, l'ho occupato io. Quando sono entrato non c'era il cappello sopra? Quale cappello? Quando si occupa un posto sopra ci si mette il cappello. Ma non mi faccia ridere. Non mi faccia ridere lei? No, lei non mi faccia ridere. No, è lei che mi fa ridere. È lei che mi fa ridere. È lei. Lo vedi, mi ha fatto ridere. Tutto questo alzo perché l'allegria. Tornando a noi, dunque, se le Ferrovie Nord piangono, i Frecciarossa non ridono. Sentite qua cosa accade, ce lo racconta un giornalista, Marco Liera. È successo che pochi minuti dopo la partenza alle 8 dalla stazione centrale di Milano, il treno si è bloccato e non ci sono state date grandi spiegazioni. In modo frammentario abbiamo appreso che il locomotore si era bloccato e il treno non poteva più andare avanti. E sempre in condizioni di assenza di informazioni, siamo rimasti per circa 1 ora e mezza fermi e il treno poi è ripreso, fino alla stazione Certosa, dove chi voleva è sceso. Il treno poi è andato avanti verso Torino, dove stiamo andando e speriamo di arrivare, con un ritardo stimato in 2 ore. Apprezzo sicuramente l'umanità del personale di Trenitalia, che insomma nella limitatezza dei mezzi tecnici, perché per esempio nella nostra carrozza non funzionava l'altoparlante, ha dato su domande dei singoli passeggeri le informazioni necessarie anche per procedere successivamente al rimborso. E poi il fatto che per addolcire l'attesa e la scocciatura è stato offerto da bere a tutti. Ogni viaggio una speranza dunque, almeno in questo caso ci si è potuto bere sopra. Per i pendolari delle Nord invece nessuna consolazione e, ironia della sorte, mentre saltava il software la Guardia di Finanza arrestava l'amministratore delegato delle Ferrovie Nord Giuseppe Biesuz per bancarotta fraudolenta. Silenzio, che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta parte, quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. Mentre i treni, definiti da alcuni passeggeri del Paleolitico, arrivavano a destinazione con sforzo sovraumano, ecco come uno schiaffo scivolare a terra un Deplian delle Ferrovie Nord, che ci spiega che si può caricare anche la bici sul treno. C'è qualcuno che dopo anni di sofferenza e calvario molla il treno e si ficca in auto, ma anche lì, mica tutto fila liscio, qualche ostacolino lo si incontra. Lo sciopero dei benzinai, che si concluderà il 14 alle 7 del mattino ed è iniziato l'11, ha allarmato gli automobilisti, che hanno usato strategie intelligenti, come ad esempio il pieno di notte in autostrada, non agevole ma funzionale. No, beh, hanno fatto il pieno l'altra sera. C'era tanta gente quando ha fatto il pieno? Ho fatto di notte l'altra notte, quindi sull'autostrada. Io ho fatto il pieno ieri e sicuramente, purtroppo, visto la mole di lavoro, riusciremo a portare a termine la nostra settimana. Ha fatto tanta coda? No, assolutamente no. Lei sa che c'è lo sciopero dei benzinai? Sì. Quando l'ha scoperto? Al televisione. E come si è organizzato? Ma di solito facevo prima e sto tranquillo tutta la settimana. Poi viaggio poco. Al centro dell'avvertenza ci sono le contrattazioni con le compagnie petrolifere per il rinnovo dei contratti scaduti, le nuove tipologie contrattuali, la crisi dei consumi sulla rete autostradale, la ristrutturazione della rete di distribuzione nel quadro di una riduzione del numero degli impianti, i costi dell'utilizzo della moneta elettronica per i rifornimenti. Ci riassume tutto così un benzinaio. Lei sa perché siete in sciopero? No, sono problemi tra gestore e compagnia, non sono al corrente io. Sbagliato non essere al corrente di questi tempi, dunque, anche per chi viaggia sulla Salerno-Reggio Calabria. 100 metri, tenere la sinistra e prendere l'autostrada A3, Salerno-Reggio Calabria. Scusi, sì. Manca molto per Castellabate? Ah, niente, io perché si saranno arravugliate 3, 4, 5 macchine, non si è capito niente. Comunque, guardi, la colpa è sempre sta chiave che è stata, che non si capisce mai, è sempre andata. Oggi, sulla Salerno-Reggio Calabria, in direzione nord, la situazione non è confortante, anche se non lo è mai stata su quel tratto tra lavori, blocchi e disagi vari. Ma oggi, proprio oggi, una ventina di operai della Piana Ambiente ha bloccato l'autostrada. I lavoratori si sono staccati dal blocco sulla statale 111 e, dopo aver percorso la rampa d'accesso alla A3, hanno occupato la carreggiata. Giornata dunque di ordinari disagi per noi poveri italiani. Grazie a Cristina Carpinelli per questo bel quadretto davvero che ci ha dipinto. Un sms che è arrivato poco fa: un disservizio importante di questi giorni allo sciopero oltranza del trasporto pubblico locale. Già, io abito in uno dei 100 comuni del Lazio dove l'azienda locale è ferma dal 10 dicembre perché la regione non paga da un anno. Ci si arrangia con l'azienda regionale, similmente in crisi finanziaria da anni. Italia in controluce torna domani alle 13:30. Un saluto da Maria Piera Ceci.